sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Coglioni con questo programmino, perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Gioia. Cruciani, fatene una ragione, cioè è che tu sia simpatico, sei arguto, delle volte dici veramente delle minchiate, scusami, che non stanno né in cielo né in terra. Gheddafi era un grande figlio di puttana, però era il nostro figlio di puttana. Secondo voi, risentiamo, chi era secondo voi che ha detto che Gheddafi era un grande figlio di puttana, ma era meglio tenerci il nostro figlio di puttana? Signor Borghezio? Gheddafi era un grande figlio di puttana, però era il nostro figlio di puttana. Sempre Borghezione definisce quelli dell'ISIS quattro smandrappati. Ma io dico che questi quattro smandrappati dell'ISIS... si vede benissimo che un esercito serio come quello del presidente egiziano gli sta facendo un culo a mandolino. Il famoso culo a mandolino. Culo a mandolino. Sallusti non riesce, direttore del giornale, non riesce a pronunciare la parola Kalashnikov. Sentiamo. Noi siamo attrezzati per difenderci, oppure come è successo l'altra sera, una nostra motovedetta si è arresa a quattro trafficanti di uomini con due Kalashnikov in mano. Scusa Sallusti, com'è la storia? Come? Aspetta, sentiamo bene Parenzo, aspetta. Noi siamo attrezzati per difenderci, oppure come è successo l'altra sera, una nostra motovedetta si è arresa a quattro trafficanti di uomini con due Kalashnikov in mano. Kalashnikov, vabbè, dai. Lui le parole di origine russa non riesce proprio a pronunciarle, capito? Ah, dici che è questo, eh? Beh, dici che è questo. Secondo me è quello. Andiamo a Salvini, caro Parenzo. No, andiamo anche a Lampedusa a raccontare. No, non me ne fotte nulla di Lampedusa, di dove sei? Oggi non me ne fotte nulla di Lampedusa. Vedremo dopo. Se succede qualcosa, bene, poi ci racconterai come si entra dentro facilmente. No. Si entra e si esce. Ma che ti regali questo scoop? No, allora, se non ti interessa. Aspetta. No, dopo. Quando comunque, la notizia del giorno è una sola. Qual è la notizia del giorno? Dimmi. È che l'accusa di Strauss-Kahn ritira l'accusa. Beh, quello è fantastico, sì. No, ma questo è il tema, visto che ti interessi. No, Strauss-Kahn che fa sesso in maniera animalesca. Latulente. Che fa sesso in maniera animalesca. L'accusa ritira le accuse. Non c'era investigazione alla prostituzione o cose di questo tipo. Viva Strauss-Kahn! Vabbè, però. Le parole di Salvini di oggi sulla pulizia etnica sono fantastiche, mamma direi. Mia. Sono strepitose. Ma strepitose le pulizie. Sono strepitose, è un grande cinema. Nel senso di vomitevoli. È un grande cinema, è un grande fantastico cinema, irripetibile. Vita delle persone, però. Ma che vita, irripetibile cinema. lui in diretta con gli amici di Radio Padania, con gli amici di Radio Padania, no, amici proprio manco per miei, manco per niente, dice, guarda, che c'è una pulizia etnica nei confronti degli italiani e dei padani, che non esistono, con la regia dell'Unione Europea. Noi abbiamo il nostro numero verde per fare, insomma, in contrapposizione chi verrà a Roma, esatto, a contro la discriminazione. Io ritengo che i padani e gli italiani siano discriminati, sia in corso un'opera di razzismo e di pulizia etnica nei confronti di chi è nato e cresciuto qua, perché è in corso un tentativo, ecco, di un altro Salvini sostituzione shock di popoli. Lo so già. La sostituzione dei popoli, cioè, secondo Salvini sta avvenendo una sostituzione dei popoli con la regia europea, cioè, praticamente al posto degli italiani o dei padani, come dice lui, perché si trova a Radio Padania, gli stranieri, cioè l'Europa, sarebbe la regia di una sostituzione, di una sostituzione. A parte che i francesi si devono incazzare già 20 anni fa per questa roba qui, in realtà nessuno si incazza, in Italia, insomma, parlare di sostituzione mi sembra un po' esagerato. Comunque, vabbè, Salvini. Il 2014 è stato l'anno in cui sono nati meno bambini dall'Unità d'Italia in poi. Quindi negli ultimi 150 anni mai erano nati così pochi bambini, 500.000. Ne sono morti 600.000, quindi se la matematica non è un'opinione è meno 100.000, però ci dicono tranquilli perché tanto arrivano gli immigrati. Quindi se non è in corso un'operazione di sostituzione etnica, sostituzione di popoli, l'Europa sta coordinando questa operazione. Io voglio un commento lapidario, un commento lapidario di secondi, però 20, di 20 secondi su questa roba di Salvini, sulla sostituzione, sulla pulizia etnica, eccetera, eccetera. Ma 20 secondi, e se vai oltre i 20 secondi ti picchio. Tre parole, registratele: una stronzata pazzesca. Tre. Oggi c'è anche Arrigo Sacchi, no, aspetta, forse fermo. Questa mia opinione non troverà spazio come editoriale sul Sole 24 Ore di domani, forse. Vabbè, quello chi se ne frega. Arrigo Sacchi e i neri in altri casi avrebbero fatto un mazzo così, ha detto le stesse cose di Tavecchio. In realtà sì, c'è qualcuno che si indigna a livello internazionale, cioè Arrigo Sacchi, uno degli allenatori italiani più conosciuti al mondo, ex allenatore del Milan, insomma lo sapete, non c'è bisogno che vi riepilogo tutto, ha detto che ci sono troppi neri e non negri, come ha detto ieri Zamparini, neri nelle squadre giovanili in Italia. Una puttanata anche questa qua, mega galattica, secondo me, questo lo dico io, una puttanata mega galattica, perché è vero che magari ci sono troppi stranieri, ma perché utilizzare la parola neri? Possono essere neri, possono essere sloveni, è vero che li portano dall'Africa, e però io non sono razzista, ho avuto Riker, però vedere così tanti giocatori di colore, vedere così tanti stranieri, beh, è un'offesa per il calcio italiano. Io sono stato a Real Madrid, avevamo i giocatori più famosi del mondo, i giornalisti e i tifosi ci criticavano perché non c'erano ragazzi della cantera e spagnoli. Quanto mai in Italia succede questo? Siamo proprio un popolo, non dico quello che dico. Ancora un Sacchi, mandate. Sacchi, mi vergogno, in una squadra dove ci sono 15-16 stranieri, sentiamo Sacchi. Il processo di italianizzazione del Milan può aiutare? Fantastico, io mi vergogno di essere italiano, ma anche voi vi dovreste vergognare, perché per avere successo siamo disposti a vendere l'anima al diavolo. Non abbiamo una dignità, non abbiamo un orgoglio italiano, ci sono squadre con 15-16 stranieri. Sacchi come Salvini. Ragazzi, c'è anche qualcuno che sostiene che Stacchio, che è il famoso benzinaio, eccetera, eccetera, che ha sparato e ucciso il bandito rom di 41 anni, Cassol, di cui sono celebrati i funerali l'altro giorno. C'è qualcuno che sostiene che doveva chiamare i carabinieri, cioè poteva stare fermo e chiamare i carabinieri. Quest'uomo si chiama Librandi ed è un deputato di Sciolta Civica. Penso che sia gravissimo se le cose fossero andate così. Io penso che si poteva vedere, farle andare in un altro modo. Penso che la prima cosa era quella di chiamare le forze dell'ordine. A Barbarano, Ponte di Barbarano, ci sono i carabinieri, 4 chilometri. Lei sta dicendo che Graziano ha sbagliato a fare quello che ha fatto? Secondo il mio punto di vista lui poteva fare altre cose, poteva chiamare i carabinieri. Ragazzi, però uno non può essere freddo, chiamare i carabinieri. Se hai un fucile lo usi. Cioè, se hai un fucile lo usi, è normale. Poi uno può anche non usarlo. Se ha deciso di usarlo e sparare, perché gli sparavano ad altezza, come dire, di gambe, come sembra, poi magari dall'inchiesta uscirà fuori. Ma non ha detto una stupidaggine, però, il signor Librandi. Ragazzi, ma uno non può essere così, chiamiamo i carabinieri. Se hai il fucile, allora che lo tieni a fare il fucile, scusa. No, voglio dire che il fucile deve essere un deterrente. Tu ma hai che il deterrente? Fucile, ma che? Chi è autorizzato a usare la forza, ma quello, vabbè, quello è logico dire così, che è meglio chiamare sempre i carabinieri. Ma io capisco, ma perché la logica, come vedi, il buon senso se ne sta nascosto. Vabbè, ma io veramente non ti capisco. Comune, non ti capisco. Dire il buon senso. No, ma scusami, dire seduti. Dire seduto in un albergo a Lampedusa dove sei tu, oppure dirlo dagli studi di una radio, beh sì, poteva però essere freddo chiamare i carabinieri, quelli no, magari io arrivavano. Dico cosa avrei fatto su. io ma che ne sai? Che ne sai? Ma io intanto non ho il porto d'armi, quindi appunto, per cui avrei... che fai? Saresti scappato a gambe levate? Beh, ci sarà un motivo se... beh, intanto avrei chiamato la polizia sicuro. Saresti scappato, due spari, oddio, fuga. Beh, chiamando la polizia, ma non so tu cosa, perché tu che avresti fatto? Ci sono Cruciani, traffico! Fermi tutti, voglio sentire lo sbrocco di Giannino. Giannino su una vicenda incredibile, quella di un salumiere in provincia di Napoli, il quale è stato multato per aver regalato un panino a un disabile. Giannino. Questa mattina a Marigliano, dove tre finanzieri a un salumiere che ha dato un panino gratis a un disabile lo hanno multato, e il signor salumiere deve pagare fino a 2.500 euro di sanzione per aver dato un panino a un disabile. Invece di sprecare così i controlli, mettiamoli su certe società di capitali. Beh, applausi per Oscar, applausi a scena aperta, applausi. Allora, abbiamo qui Salvatore Picardi, buonasera, salumiere di Marigliano. Buonasera. Come sta Picardi? Come devo stare? Sto bene. Senta, allora, mi racconti un attimo la storia. Qui c'è una la multa a quanto ammonta? Varia a discapito dell'agenzia delle entrate, della loro scelta, da 150 fino a 2.500. Cioè, lei è possibile che prenda 105? Io, noi ci auguriamo che lei non prenda nulla, ovviamente. Da 150 a 2.500. Sì, ma scusi un attimo, sì. Che hanno fatto i signori della Guardia di Finanza, i quali non sono andati a scoprire le grandi evasioni di Napoli e della Campania? Sì. Sono andati a pizzicare, io lo dico con grande rispetto della Guardia di Finanza, perché se no mi fanno un mazzo, no, così. Ci mancherebbe. No, però il punto fondamentale è che sono andati a pizzicare un piccolo salumiere di Marigliano, e addirittura uno che usciva con un panino. Allora mi spieghi, lei regala un panino donato. A chi? Lei dona il panino a chi? Allora, ogni mattina praticamente Gigi è, dico ragazzo, ha 60 anni, però c'ha il cuore di un ragazzo. Sì. Con questi deficit mentali ci fa compagnia, è parte integrante di noi. Sì. E sono piccoli doni che lo facciamo felice. Sì. Allora lui ogni mattina viene e sceglie un panino con la farcitura che gradisce quel giorno. Sì, quel mattino che aveva scelto? Prosciutto cotto. Prosciutto cotto, allora? Sì. Allora, tranquillamente ho fatto il panino, l'ho incartato, gli ha detto me lo mettere nella busta che oggi sto vestito pulito, si è fatto capire, perché non parla benissimo, diciamo così, balbuziente un poco. Sì, sì. Praticamente, dopo questo, è uscito tranquillamente fuori, perché erano 10, siamo andati a casa, è l'orario che lui si ritira. Sì. I tre agenti l'hanno bloccato senza dire né se né ma, e hanno chiesto lo scontrino. Lui logicamente non capisce. Non ce l'aveva, manco l'ha capito? E manco l'ha capito, infatti lui era convinto che si volevano prendere il panino, e lui cercava di spiegare che il panino era suo e io lo volevo bene. Cioè balbuziente, cioè balbettando. Ma non ho capito, questi qua che cosa hanno fatto col disabile? A lei gli hanno scritto questo verbale, no? Cioè, sì. No, loro l'hanno bloccato praticamente, lui dopo un attimo di defiance, diciamo così, è scappato via piangendo, perché è rimasto un po' traumatizzato. Cioè è scappato via piangendo, dunque con lui non se la sono presa. No, no, fortunatamente no, fortunatamente no. Allora, torniamo dopo il traffico e ci racconta tutto, eh. Salvatore Picardi, la cosa incredibile che hanno fatto un verbale, ci hanno sprecato carta, tempo, per fare una multa, forse, 150-2500 euro, a questo signore che ogni mattina regala un panino a un disabile. Questo, in questo modo si sprecano le risorse dello Stato, cazzo. Buona zanzara a tutti. So you think you'll take another piece of me to satisfy your intellectual need? Do you want? Rischia di pagare fino a 2500 euro di sanzione perché ha regalato un panino a un disabile. Quanto vale un panino, Picardi? Ma quanto costa? Per me non ha valore, sinceramente. No, d'accordo, pensiero, d'accordo. Ma può valere €1, €1,20 €1,20 Allora, uno ma può. Ma non pagherà lei l'eventuale multa, speriamo di no. Ma la se la devo pagare, la pagherò, non è un problema. Ma cioè lei dice, nonostante. Cioè, se lei arriva a. Se si dovesse arrivare a pagare la multa, e speriamo di no, noi ci opporremo in tutti i modi possibili, lei dice io comunque la pago, giusto? Sì, sì, sì, se lo Stato dice che sono evasore e ho sbagliato, pagherò, non è un problema. Senta Picardi, però la domanda è questa, lei non ha mai pensato neppure lontanamente, perché adesso io tecnicamente non so come funziona, no? Che quando uno... neanche io, che quando si dona per lo scontino, è la prima volta che l'ho sentito, vi dico la verità. Perché uno si immagina, no, esci dal dai comunque qualcosa a qualcuno, un negozio, immagino che il principio sia quello. La retribuzione servisse lo scontrino. E invece, invece niente. Che cosa le hanno detto i finanzieri quando sono entrati? Hanno detto favorisca i documenti, si sono presi i documenti, hanno controllato i registri corrispettivi, hanno trovato tutto a norma, hanno detto anche forse troppo, sì. Questa è stata la loro parola. Sì. E hanno appurato effettivamente che l'unico errore che riuscivano a riscontrare è questo panino donato a Gigi. E dunque? E dunque loro ho cercato in tutti i modi, sinceramente si trovava gente rimasta scioccata dalla situazione, persone sì, anziane, sì. Perché comunque il commercio quello è in tutte le età, sì. Ma sono rimaste veramente sconvolte dalla situazione, cercando di spiegare che Gigi è un ragazzo diversamente abile, che tutti... sia io sia e loro? Io niente, non hanno voluto sentire nessuna ragione. Ma questo perché secondo lei? Perché devono fare comunque qualcosa quando escono? Perché devono portare a casa la pagnotta pure loro? Ma non credo che l'evasione di 2 centesimi possa migliorare l'Italia al momento, vi dico la verità. No, credo ma sono cose quello, molto, molto più importanti. Quello d'accordo, ma lei non ha pensato nemmeno lontanamente di fare lo scontrino quando dà questa cosa, no? Vi dico la verità, non sapevo che donare bisognasse fare lo scontrino, vi dico la verità. È una cosa veramente nuova, mi trovo ancora adesso incredulo alla cosa. Scusi, Salvatore, scusami, sì, ci chiamo del tuo. Quando è successa questa cosa? È successa sabato mattina alle 10 di mattino. Sabato mattina alle 10. Sì. Ieri e oggi è sì, tornato? È tornato, abbiamo chiamato noi, è tornato ancora impaurito. E che gli hai dato il panino lo stesso? Certamente. E adesso multatelo ancora, andate lì. Ho no, come hai fatto lo scontrino? Sì, l'ho fatto perché ho paura di essere ripreso, perché è il primo verbale in vita mia. No, però dai, uno deve resistere su questa cosa qua. Bisogna affermare un principio. L'evasione. Ma non lavoro con il cuore, non lo so come dobbiamo. No, ma quello avanti. Sono d'accordo con te. Poi tu sei stato pure militare, se non sbaglio, no? O no? Sei stato militare? Però me lo sono esercito, sì. Cioè, non hai fatto solo il militare, hai fatto anche un po' di carriera nel... Sì. Però l'amavo. Io dico una cosa, Parenzo. Allora, secondo me Salvatore doveva resistere. Cioè, doveva continuare a regalare il panino, fottendosene di altre multe. Perché bisogna anche distinguere. È ovvio che uno può fottere il fisco anche in questo modo, dicendo t'ho regalato una cosa, questo è evidente. Ma non è questo il caso, bisogna essere flessibili in questo caso. Bisogna saper capire quando c'è il regalo per altri fini, da quando c'è un regalo per necessità. Ma si vedeva che persona ha avuto il dono. No, ma certo che comunque si vedeva. Comunque guardi, Cruciani l'aiuterà anche economicamente. Io no, ma che c'entro io economicamente, scusami. No, aspetta, questa è la proposta che le facciamo. Io per la mia piccola parte, visto che abbiamo salari diversi, io per la mia parte, Cruciani ma scusa, per ma la che sua... c'entra? Ma quello sta tranquillo, non è che c'ha bisogno di soldi, Salvatore. No, la multa la pagheremo noi, cioè la pagherà ma Cruciani non è della radio. Allora, vabbè, questo si può fare però, questo si può fare. Prendi questo allora, impegno una volta. Salvatore, se arriva sì, la multa... io ti do una mano, dai. No, d'accordo, se arriva la multa, allora... Ti faccio la una promessa. La paghiamo la multa noi. però con la postilla di poter mandare a quel paese chi l'ha emessa. No, quella no, perché dobbiamo mandare a quel paese la Guardia di Finanza. No, non la burocrazia, no, non la guardia in sé. Beh, quei due finanziari sì, però, scusa, abbi pazienza. No, quei due lì sono due, no, ma non... Ma com'erano fisico questi qua, com'erano, quel personaggio erano? Uno era meridionale, sulla quarantina, credo, padre di famiglia, Padre di essere un figlio suo. Ma gliel'hai detto? Gliel'hai detto qualcosa? Sì, ho cercato di dirlo. Guarda, In che modo hai detto? Ho chiesto, guarda, trattatemi come un figlio, è la prima volta che mi capita una sezione del genere. Lui, impassibile. Ha fatto il verbale. E l'altro? Mi sono sentito un criminale, sentito in vita mia. E l'altro? L'altro invece con faccia tosta ha detto la cosa e poi è uscito fuori come niente fosse. E poi stava un altro ragazzo molto giovane. Ma quanto ci hanno messo? Quanto tempo hanno perso a fare sto verbale? Quasi un'ora e mezza nel negozio. Un'ora e mezza di lavoro per fare un verbale. Continuamente, sì. Cioè la gente li attaccava, dici? Sì, comunque cercavano la ragione, ma loro non... Ma come erano, in divisa oppure in no, borghese? No, in borghese. In borghese, capito? Parenzo, sì. Una cosa pazzesca. Allora, se arriva la multa, la paghiamo noi. La paghiamo. Ti prego, Salvatore, mandami questa multa. Quando arriverà? Se arriverà, spero che non arrivi, però la paghiamo noi. Però un'altra cosa. Allora, tu hai fatto ieri e oggi lo scontrino, ma è anche ridicolo. Di quanto l'hai fatto lo scontrino? €1,50? Di un euro. Hai fatto due scontrini da un euro, ieri e oggi. Sì. Una cosa incredibile. Vabbè, cioè, ho pagato la merce in entrata, ho donato la merce, ho scontrinato per donare la merce. Ho pagato tre volte le tasse, praticamente. Cioè non si può fare in questo Paese. Non si può regalare un panino a un disabile, perché se tu regali un panino a un disabile, a qualsiasi persona, eccetera eccetera, devi fare lo scontrino, pagare le tasse, eccetera eccetera, altrimenti arrivano due signori della Guardia di Finanza, per non chiamare in un altro, tre in un locale di 30 metri quadrati. Una cosa pazzesca. Ciao Salvatore, ciao. Grazie, presto, ciao. Fa male solo a chi non sa ridere, e la zanzara. Scusami Giuseppe, al primo appuntamento, io non, anche al secondo, non penso che tutti i presenti siano piacere, sono Giuseppe Cruciari. Ragazzi, fermi tutti, no? Stasera voglio parlare il meno possibile di questa ricetta che abbiamo introdotto, di questa grande inchiesta della zanzara sulla petomania, sulla flatulenza tra coniugi, tra amanti, tra persone che stanno insieme. Non cancellerò questo tema, non lo cancellerò del tutto, ma lo voglio, come dire, declinare, lo voglio affrontare in un'altra parte del programma. Però durante la pubblicità. No, che durante la pubblicità, è un tema, guarda, molto interessante. Ovviamente gli snob, quelli che fanno i fighetti, quelli che criticano questa trasmissione così per principio o per altri motivi, dicono: beh, siamo arrivati addirittura a parlare di queste cose. Certo, non è che siamo arrivati, parliamo di queste cose perché sono le cose su cui in genere uno ne parla riservatamente. No, ma questa qua non hai capito, allora non hai capito la mazza di com'è questa trasmissione. Qui si parla delle cose di cui si parla anche in privato, ma non hai capito nulla. Ma ti devo insegnare tutto. Scusami, però c'è anche un po' ti devo insegnare pudore, tutto, no? Non c'è niente da fare, ti devo insegnare tutto. Il pudore non esiste in questa trasmissione. Non hai pudore rispetto a nulla. Non esiste in questa trasmissione. Allora il pudore. Ti voglio dire, allora non esiste. Non hai pudore rispetto a nulla. Ma non, certo, qualcosa ho pudore, mi rimane ancora un ma po'. Ma io devo ancora scoprire che cosa, questo è il dramma. Sento un tale numero di boiate in giro che quello che dico io è il minimo, guarda, ti assicuro, è il minimo, dalla politica agli imprenditori eccetera, che quello che si dice qua rappresenta comunque un nulla. Vogliamo ricordare il nuovo mullah italiano del cristianesimo, Mario Adinolfi, direttore della Croce. Donna stuprata, anche per lei niente aborto, secondo lui. Una donna che rimane incinta e vuole abortire, no? Chi è? Tu dire chi è? Cioè, è una donna che va aiutata perché deve far nascere quel bambino. Va aiutata, quel bambino deve essere fatto nascere quasi a ogni costo. Io dico che il bambino deve nascere. Cioè a ogni costo, e se quella non vuole? E se quella non vuole? Quella non vuole, credo ci siano le condizioni per aiutarla a farla nascere. Esistono solo maschi e femmine, i trans non esistono. Io sono no, maschi e femmine. E gli altri sono esistono, sono maschi e femmine. D'accordo? Questo è. Ma che vuol dire trans e trans? I trans cambiano sesso? Lui dice sostanzialmente per una, questo nuovo modello di prostituzione. Non facciamo diventare un'ideologia l'idea che si cambia il sesso come si cambia un abito, perché non è vero. Impedirei l'utilizzo di, diciamo, di meccanismi che portano a cambiare sesso per magari incentivare il mercato della prostituzione di quel segmento particolare. Dai ragazzi, ma insomma, attenzione, non sono temi su cui si scherza e si gioca questi, eh. Fatemi dire, questi sono temi veramente seri. Cioè, Intanto ti avverto, caro Parenzo, che ci è arrivato un richiamo dai signori, io li chiamo dai signori burocrati, i signori burocrati dell'Authority per le pari opportunità, io non sapevo nemmeno che esistesse, l'Authority per le pari opportunità. Dopo ti dico tutto, l'Authority per le pari opportunità esiste, richiamo, ma me ne fotto del richiamo, esiste l'Authority per le pari opportunità, per le pari, esiste l'Authority per le pari, io divento pazzo per queste cose, esiste l'Authority per le pari opportunità, io ti dico solo questo, l'Authority per le pari opportunità, carte bollate, ricorsi, no, sostanzialmente sarà un dipartimento del ministero, sì, ma è uguale, sì sì certo, dipartimento per le pari opportunità, io la chiamo Authority così per modo di dire. Sì, non è che c'è un palazzo. Come no, ci saranno degli uffici della carta bollata, dei funzionari. Ma con delle persone che lavorano e monitorano. Monitorano, che devo monitorare? Cosa? Cosa devono monitorare? Cosa? Non c'è nulla da monitorare. Fatemi sentire Borghezzi a proposito di pari opportunità su Gheddafi, va. Borghezzi su Gheddafi, così mi incazzo, dai. Gheddafi era un grande figlio di puttana, però era il nostro figlio di puttana. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Ultimatum di Bruxelles alla Grecia, c'è un solo piano di aiuti, 48 ore per decidere. Atene no a ricatti, nemmeno con una pistola puntata. Nuovi raid aerei in Libia, l'Egitto chiede un intervento internazionale. Domani riunione all'ONU, 45 arsi vivi dal califfato in Iraq. Vertice a Palazzo Chigi sulla Libia con Renzi. La richiesta serve un'ampia iniziativa diplomatica per promuovere la stabilizzazione del paese. Dalle coste libiche un esodo continuo. Le voci dei migranti, scappiamo dalle bombe, ci sparano addosso. Al collasso il centro di accoglienza di Lampedusa. Pesanti combattimenti nella città di Debaltseve. I filorussi mostrano i soldati ucraini prigionieri. Kiev risponde, non ci sono le condizioni per ritirare le armi pesanti. Mattarella riceve le opposizioni, Sel Forza Italia, andrà al colle anche Grillo che scrive grazie presidente, non ci sarà il leader della Lega Salvini. Caso Iara, il RIS avrebbe trovato fibre del sedile del furgone di Bossetti, sui leggings della ragazza uccisa che sarebbe salita sul mezzo del presunto assassino. Allora, spero, Parenzo, che riuscirai a non farti incastrare nel, come hai fatto ad Auschwitz, non per colpa tua, ovviamente, all'interno del centro di Lampedusa. Questo no, era il primo. Sono già uscito. Meno male. Questo, almeno di questo siamo sicuri. Sono uscito. L'altra cosa che volevo dirti è che a Parigi un signore ebreo, un reporter ebreo, ha fatto un bellissimo esperimento che dovresti fare anche tu in Italia. Io ho visto. È stato 10 ore a Parigi in giro per la città, ha preso una serie di sputi, non addosso, ma quando lui passava. Perché portava una kippa in testa. Perché portava una kippa in testa, ma fa anche tu dovresti fare questo tipo di esperimenti, non andare a Lampedusa a raccontare le solite cose. Terza cosa, Buonanno annuncia di voler andare a Tripoli. L'amico Buonanno vuole andare a Tripoli. Ecco, guarda, di tutte e tre le cose che hai detto, sì. Forse la più bella notizia è questa. Cioè, tu dici va a Tripoli così lo famo fuori. No, guarda, mi hai svoltato. Aspetta un attimo, che sono qui in camera. Mi porta dello champagne. Ah, non c'è champagne a Lampedusa. Mi porta del prosecco, qualunque cosa, però. Un prosecco. A carico di Mediaset. A carico di Mediaset. Dimmi. La più bella notizia della giornata. Oggi è stata una giornata di merda. Mi sono svegliato alle 6:30, aerei, sì. Da Palermo a Lampedusa. Questi zozzi che stanno dentro i centri, no, centri profughi, zozzoni, zozzoni, saranno zozzoni, comunque vabbè, dai. Che fa piangere il cuore, tutto il giorno in piedi, sì, certo, non c'è dubbio. Poi? La più bella notizia, me l'hai data alle 19:25, sì. Buon anno va a Tripoli, Vuoi vedere che nel giro, non dico di un'ora, ma di 40 secondi, appena il signore mette piede lì in quel paese, fa poco lo spiritoso con quel coglione del califfo? Vuoi vedere che il califfo, se lui arriva lì, è bellissimo quello che viene, ma non è che se lui arriva con il suo circo a Tripoli, non funziona come a Bruxelles, amico mio. Se lui mette piede lì dove ci sono i signori dell'ISIS che ci mettono 40 secondi a tagliare la gola alla gente, come si è visto, non è che quello arriva e dice: califfo, voglio far culo, c'è la Lega! Califfo non è che è lì che gli dice: no, guarda, scusami caro, buon anno. Non si dice, non mi puoi mandare a fare il culo. Il califfo non è come noi. Il califfo prende il signor buon anno e gli dice: allora bla bla, dice: scusami, vieni qui caro amico mio. Lo prende per un orecchietto. E poi? E poi, amico mio, io fossi del allora tempo. altra cosa, forse Renzi sta pensando a Prodi come mediatore per la vicenda tipica. Allora dico una cosa, ragazzi, questo è ottimo. No, ma quale ottimo, un questo cazzo è ottimo, fermo, Prodi, ottimo. Allora noi abbiamo il ministro degli esteri italiano, il ministro degli esteri dell'Europa, il finto ministro degli esteri dell'Europa, che è italiano, e pensiamo a un terzo Prodi, no, come non mediatore, è un terzo, non hai capito, ma non va, hai smettila, non hai capito, fammi sentire Roberto da Milano, che è meglio. Roberto da Milano, fammi sentire Roberto da Milano. Non ci vuole un mediatore, non serve una mazza. Niente, vai tu allora. E per giunta Prodi, no, io non ci voglio andare, Roberto, vai. Beh, ti credo che tu faresti un casino. Ma non sono in grado, dai. Beh, Roberto, questo sicuro. Ma anche tu però, Roberto, vai. Ma io infatti non mi sono candidato. Ma nemmeno io, Roberto, dimmi. Ne ci tengo perché non so farlo. Vai, dimmi. Pronto? Dimmi. Volevo dire qualcosina al signor Parenzo. Vai. A proposito del benzinaio. Sì. Io vorrei mettere lui e quel signore che ha parlato, quel deputato, che dovevo chiamare i carabinieri, vorrei mettere loro dentro una gabbia di vetro con quattro persone armate di tutto punto, calati, mazzi, e poi sentirei la busta di cacca fino qui. Vorrei vedere se ringrazierebbero il benzinaio oppure se lo manderebbero in galera. Cioè tu dici che se Parenzo fosse stato dentro la gioielleria si sarebbe cagato sotto e avrebbe ringraziato il benzinaio per gli spari? Penso proprio di sì. A mio Parenzo, paese, rispondi. Dicono? Che dicono? Parenzo, che dicono? C'è un porpataca. No, guardi, patacca. Sai cosa vuol dire? Un coglione. Il coglione, mi saluti la sua famiglia. No, il pataca, quello vuol dire. Io questo traducevo, era la traduzione. Pataca comunque è anche detto in modo bonario, quindi non c'è da vabbè, allora? Ma sicuramente, qualora fosse stato lì, sicuramente avrei avuto paura, su questo non c'è un po' di dubbio. No, ma hai dato ragione a quel deputato di sciolta civica, il quale ha detto che bisognava chiamare i carabinieri. Ma certo, dall'esterno è sempre meglio chiamare i carabinieri. Ma se uno sta lì, fucile in pugno. No. Così, non avendo impugnato mai un'arma in vita mia. Senti, basta, bisogna dire le cose come stanno. Questo ha avuto i coglioni, questo benzinaio ha avuto le palle. Dai, diciamola tutta. قال وزير خارجية إيطاليا الصليبية باولو جنتيلوني يوم أمس إن إيطاليا مستعدة للانضمام إلى قوة تقودها الأمم الملحدة لمحاربة الدولة الإسلامية، وذلك بعد التقدم الذي حققه المجاهدون في ليبيا. وفي مقابلة تلفزيونية قال جنتيلوني: لا يمكننا أن نقبل فكرة أن خطرا إرهابيا فعليا موجود على بعد بضع ساعات بالقارب من إيطاليا. No, io non ho capito bene, vogliamo risentire Radio al-Baghdadi, che è la radio del califfato, caro Parenzo. Ma io fossi in te, guarda, non dai, su. Tanto. Io voglio dare un grande abbraccio, voglio dare un grande abbraccio a quel... Dai abbraccio al califfo. No, al califfo me ne fotto. Califfo me ne fotto, gli dare un abbraccio, ma chi lo conosce il califfo? Ma il califfo è un poveraccio, non dai. Non duri 10 secondi. Ma il califfo è un poveraccio, un povero, uno attaccato al medioevo, un poveraccio, sarà ricchissimo tu. Magari. Ma tu prova appena ma me ne fotto. Allora, la cosa, prova tu col tuo solito ti dice, me ne fotto tu. Certo, ve lo dico, me ne fotto del califfo prova, che è un poveraccio, che lo considero un poveraccio, un retrogrado, uno che ci vuole far tornare al medioevo, ma non mi interessa adesso il califfo. Era Radio al-Baghdadi che annunciava il fatto che Gentiloni è un ministro crociato, poi definire crociato Gentiloni rende ridicoli gli stessi signori della radio del califfo. Però voglio dare un abbraccio fortissimo a quel vignettista danese che vive recluso semplicemente perché ha raffigurato il signor Maometto come un cane, cioè il corpo di un cane e poi la testa di Maometto. E adesso è inutile che vi sto a spiegare questa vignetta, che è una cosa complessa. Però c'è tutto il diritto in Occidente, nei paesi liberi, di raffigurare il signor Maometto come un cane, perché qui c'è la satira, la libertà di satira. No, ma non mi interessa adesso le discussioni sulla l'offesa della religione, me ne foto. Ci sono i tribunali, per questo ci sono i tribunali. C'è il sacrosanto diritto senza però, come dire, dover subire cose incredibili, cioè dover vivere scortati, eccetera, eccetera. C'è il sacrosanto diritto di raffigurare Maometto, il signor Maometto, come un cane, chiaro? Vabbè, se posso ritenerlo non di peso gusto, ma una bestemmia. Però, ma quale bestemmia? È un vignettista! Dai, su, una bestemmia! Ma cioè, non c'è dubbio che questi basta. Non c'è dubbio che questi tagliatori di gole sono le persone più putride basta, e pericolose. C'è solo oggi questo discorso da fare. Basta. Solo questo. Dopodiché, io però ti dico anche che io, da non credente, si può raffigurare, si deve in alcuni casi, se uno se lo sente. Se uno se lo sente. Per i musulmani mi sento offeso per loro, poi non farei nulla. Tu ti senti offeso per i musulmani? Ma come mi sentirei offeso? Cioè, per questa vignetta qua ti senti offeso? Mi dispiace, capisco che qualcuno si può offendere. Io ho molti amici tra i musulmani. Pazzesca. No, ma pazzesco cazzo. Ho molti amici tra i musulmani, che persone moderatissime che vivono qui da anni, che sono italiani, che mi dicono: beh, però rappresentare, io non dico neanche il nome, califfo come un cane non va bene. No, non va bene. Per satira, il califfo Maometto, il quello califfo che è un cane. Il califfo è un cane, non Maometto. Il califfo, vabbè, è un Maometto, cane. Quello che è, dai, è uguale. No, è diverso. È il diverso, califfo, è un leader politico ed è un cane. È uguale. Non è uguale per niente. È sei la un satira, libertà non di satira, sempre. Non è uguale. Sempre libertà di satira. Ma Filippo, non è uguale. Filippo da tre, certo, non sono due persone diverse, due entità diverse. Ma no, sono due cose diverse. Bene. Il califfo è un leader politico. Sì, professore, sì. Maometto è una divinità. Sì, professore. Ma Filippo, no, professore, da Trento. Che devi ragionare. Filippo da Trento, non è mi interessa. C'è la libertà. Qualcuno, va benissimo, quello. Tu la consideri una bestemmia, io no. A Filippo te da piace Trento. Bestemmiare? A me, io trovo maleducato. No, non ho mai bestemmiato in vita mia. Io Filippo trovo maleducato bestemmiare. E mentre in pubblico. Mentre tu sì, Filippo da Trento, vai. Ma io non. Sì, un bravo, corno. Bravo. Io trovo maleducato bestemmiare in pubblico. Va bene, Filippo da Trento. Quella in vignetta. Pubblico lo trovo maleducato. Non rappresenterei mai Dio in quel modo. Va bene, Filippo da Trento, vai. Lo trovo vergognoso quello. Va bene, benissimo. Filippo da Trento, sei peggio dell'ISIS. Il califfo si può rappresentare come ti pare. Va invece. Bene, Filippo da Trento. Vai. È diverso. Abbiamo capito, fai parlare Filippo. Grazie Cruciani, grazie. No, senti, io chiamavo per le esternazioni, le grandi stronzate dette dal Beota di Sciolta Civica. Ok. Sì. Io ieri sono passato per lavoro a Barbarano e c'era un bel cartello. Sì. Chiusura definitiva per rapina. Sì. Dove alla stazione di servizio del povero benzinaio. Sì. Premesso che io, se mi trovo davanti a un criminale, perché non è un rom, un italiano, è un criminale, un bandito. Sì. Penso al mio funerale o al suo. A 100 volte scelgo il suo funerale piuttosto che il mio. Sì, diciamo, non è che per forza bisogna stare di fronte a questa scelta. È evidente che anch'io, tra il funerale del rapinatore e il funerale di un'altra persona, preferisco il funerale del rapinatore, se proprio sono costretto a scegliere. Sì, è una metafora estrema, però lasciami dirti una cosa: è come quando quest'estate, no, sì, c'erano i famosi furbi per la storia dell'orso, no? Ti faccio una metafora un po' estrema anche qui, no? Sì. Allora tu davanti all'orso dovresti tirare fuori l'iPad, no? La guida, sì, pensare come comportarti, certo, e poi decidere se scappare. Vabbè, ma questi sono gli animalisti pazzi, addirittura sì, qualcuno oggi. Qualcuno oggi è tornato a denunciare Berlusconi e Francesca Pascale per la questione di Dudu, perché sarebbe nutrito male con troppi dolci. Un anno dopo sono tornati un'altra volta a denunciare questi qua dell'AIDA, uno che è venuto pure ogni tanto da noi, Croce. Dai, vabbè, comunque. Vabbè. Comunque, essenzialmente lui ha detto, a distanza di mesi, settimane, adesso non so quando è successo l'incidente, che lui avrebbe fatto così. Punto. Nel frattempo l'altro è. Vabbè, ma insomma, alla fine tu vuoi dire il benzinaio ha fatto benissimo. Bene, Silvano da Vicenza, Silvano, vai. Salve Cruciani. Dimmi Silvano. Sabato, domenica e ieri c'era la fiera a Vicenza delle armi e della caccia. Sì, ottimo. Parlando con i vari cacciatori o tiratori sportivi così in giro. Grandi cacciatori, li voglio abbracciare tutti, sono grandi ascoltatori, ecco, della Zanzara, cacciatori tutti grandissimi. Io vado a caccia, non vado a caccia, però i cacciatori è una cosa legittima e li abbraccio. Tutti erano dell'opinione, se fosse capitato a loro, no, sì, chiunque diceva. Vabbè, se fosse quelli sono, a me, quelli sono cacciatori, tutti però, li ammazzavo, i banditi, tutti, gli sparavo sulla testa. Un fucile di precisione per andare a caccia al cervo va benissimo, ha fatto bene il benzinaio. Poi dirò una cosa anche di più, se mi permette. Dimmi, no? dimmi. Inviterei gli italiani, quelli che non hanno avuto precedenti penali, cose del genere, andate alle questure e fate la richiesta della licenza per il porto di... Cioè, lei sta dicendo, scusa Silvano, però lei, non voglio, chiariamo bene la cosa, non è che lei è un venditore di armi, no? No, no, io non vendo armi, non è che c'è un negozio di armi. No, ma Parenzo, Silvano sta dicendo, gli italiani dovrebbero armarsi, cioè dovrebbero armarsi, chiedere il porto d'armi. A parte che ottenere il porto d'armi in Italia è complicato, Silvano, non è così semplice, è più facile procurarsi un'arma, diciamo, in maniera illegale, ovviamente non sto dicendo di farlo, per carità di Dio. Però è un po' complicato, però rispondi a Silvano che dice che bisogna armarsi, caro Parenzo. Ma io non c'è da rispondere a nessuno, se questo pensa di volersi armare, si armi. Io avrei paura ad utilizzare l'arma sia per me che per l'altro, quindi non mi sento, non ho manco fatto il servizio militare, figurati. Te pareva. Ciao, si va. Allora, voglio capire da voi se considerate la frase di Sacchi razzismo, Facciamola risentire, la questione della persona di colore, troppe persone di colore nei campionati italiani, eccetera. Io non sono razzista, ho avuto Riker, però vedere così tanti giocatori di colore, vedere così tanti stranieri, è un'offesa per il calcio italiano. Io sono stato a Real Madrid, avevamo i giocatori più famosi del mondo, i giornalisti e i tifosi ci criticavano perché non c'erano ragazzi della cantera e spagnoli. Quanto mai in Italia succede questo? Siamo proprio un popolo, non dico quello che penso, ma che non ha dignità oltre a non avere orgoglio per il proprio paese. Beh, insomma, non dico quello che penso, ma siamo un popolo che non ha dignità. Cioè, se avessi detto quello che pensavo, che avrebbe detto degli italiani? Non so. Mamma mia. Mi sembra veramente una follia. Cioè, i giocatori di colore non c'entrano assolutamente nulla. Cioè, se voleva dire che ci sono troppi stranieri, se ne discute, ne discutono tutti. Cioè. Però mi è sembrata una frase praticamente simile a quella di Optipoba. Vogliamo ricordare Tavecchio Optipoba, il presidente della Federcalcio, frase mitica pronunciata negli ultimi giorni di luglio, proprio quando noi stavamo andando via in vacanza, purtroppo, altrimenti avremmo armato un casino di giorni. Noi invece diciamo che Optipoba è venuto qua, che prima mangiava le banane, adesso gioca titolare della Lazio. E va bene così. In Inghilterra deve dimostrare il suo curriculum e il suo pedigree. Beh, il pedigree pure è bello, il pedigree, perché di solito si dice il pedigree per i cani o per gli animali, il pedigree, il pedigree. Luca, provincia di Torino. Buonasera, Luca. Ciao Giuseppe, ciao. Dimmi. Assolutamente d'accordo con Sacchi, ragazzi, assolutamente d'accordo. Ma con su Sacchi. Che cosa? Su che cosa? Spiegami. Sul fatto che ci sono troppi giocatori, ma volevo di dire stranieri, però ragazzi, intendiamoci bene, o decidiamo che devono giocare l'80% degli italiani e allora torniamo indietro, oppure diciamo che si possono portare dall'Africa, dall'America, dall'Asia, dagli altri continenti, no, un tot di giocatori. Che vuol dire? Cioè, che vuol dire? Spiegami. Li puoi portare da dove vuoi. Però devono giocare gli italiani. No, non è che devono giocare prevalentemente, dovrebbero giocare prevalentemente gli italiani, perché se no non c'è, come dire, anche in Europa non c'è credibilità. Cioè i club si presentano in Europa a giocare, non so, Milan, Real, e alla fine sono... Ho capito, ma Sacchi ha parlato di giocatori di colore, che c'entra dire giocatori di colore? Ma lui non gliene fotte niente che siano di colore o non di colore. Ho capito, quando uno dice di colore e dà una definizione precisa però... Ma Sacchi, come dire, Sacchi lo conosciamo un po' tutti, non è come dire, è stato anche molto fortunato nel suo percorso calcistico. Vabbè, ma quello è un altro discorso, dai. Vabbè, allora sei d'accordo con lui. Poi Luca, che volevi dire? È assolutamente armarci, eh. Armarci, eh. Di sicuro armarci, partiamo armati. Vabbè, ciao Luca, ciao. Going to the city. Allora, Zamparini ieri da noi ha detto: io amo i negri, definendoli negri. Sentiamo. Zamparini, non credo alla notizia, non credo alla notizia. Come quella della banana, che lui sia contro i negri, non ci credo. No, ma perché si dice negri poi? Non ho capito. Come si dice? Bianchi. Allora, che problema c'è? Io li amo i negri. Sono persone come me, come te. Lotito, delirio di onnipotenza. Lui forse si credeva onnipotente e non sa che il potere dà fastidio a molti e che poi lo combatteranno, ed è quello che gli è successo. Ma non è un delirio di onnipotenza questo qua, quello che abbiamo sentito? Può anche darsi. Ne ha sofferto Mussolini, ne ha sofferto Craxi, ne hanno sofferto in tanti a livello grandissimo. Anche lui. Anche quando dicevo che voleva fare il politico, è un delirio di onnipotenza. Poi, come sapete, ha detto che non va bene registrare le telefonate, è come nel regime sovietico, una cosa da infami registrare le telefonate, eccetera, eccetera. Emanuele da Lucca, vai Emanuele, vai. Pronto? Dimmi. Non sono da Lucca, sono da Udine. Da Udine, uguale, vai, Emanuele da Udine. Salve a lei e parento. Allora, una cosa volevo dire. Allora, in un paese, io capisco, vivessimo a Reykjavik, uno dà un panino senza fare lo scontrino al disabile, vabbè, gli fanno la multa, ma siamo a Reykjavik però, cazzo, non a Napoli, non in Italia, puttana miseria, dove c'è un signore che prende condannato in terzo grado definitivo per frode fiscale e va a Palazzo Chigi a parlare col primo ministro, porca mignotta. Va bene? No, questa, ma chiaro, Emanuele, molto chiaro. È una cosa scandalosa, scandalosa. Allora, io vorrei conoscere quei signori finanzieri zelanti, bravi nel loro mestiere, che vanno a rompere i coglioni invece dove la malavita c'è, a Napoli, in altre zone di Napoli, e non gli cagano il cazzo, un cazzo di niente. Che lo facciano. Come hanno rotto i coglioni al signore Salumiere? E un'altra cosa, mi scusi Cruciani, dopo la saluto. No, Emanuele, dica. Allora, dimmi. Questa cosa qua, a parte questa cosa qua, che è una, io guardi, l'Italia, c'è la sua rubrica, no? Italia paese di merda. Sì. Paese di merda, magari una merda, siamo una melena. Sa che cos'è la melena? No, cos'è la melena? La melena è il sangue digerito, che quando viene espletato con le feci fa un odore terribile. Addirittura. No, questo è questa storia della multa da 150 a 2500 euro al salumiere per aver regalato un panino a un disabile grida vendetta. È evidente che grida vendetta, soprattutto non tanto per la multa che poi alla fine non verrà pagata, per la perdita di tempo. Si sono presentati in tre per fare una multa ridicola a un signore che regalava un panino, e questo è il punto. Ti fa capire tante cose, come vengono usate le risorse pubbliche, che cosa dovrebbero fare le persone invece di farne altre, e questo è il punto, quello che ti fa incazzare. Perché sono andati da quel tizio là? O non sappiamo qualcosa, o questi tre, cioè, fateli rimanere in ufficio. Cioè, io spero che questa vicenda, se viene resa pubblica, il loro capo ufficio a Napoli faccia qualcosa. Emanuele, poi per concludere? Poi l'ultima cosa, che non c'entra niente con questa faccenda del salumiere, mi è venuto su prima. Allora, io mi sono anche rotto i coglioni di vedere questi cazzo di politici che vanno ad attaccare il cappello sulla disgrazia di quel povero Stacchio, che la sera va a dormire, porca mignotta, con il pensiero di aver ammazzato un cazzo di cristiano. Questo è il discorso. Allora, io mi sono rotto le palle, che vadano in Parlamento a legiferare, a proporre leggi. Cioè, non devono fare la processione, non devono fare la processione lì. Ma porca mignotta, l'ultima volta che è stata cazzo, le camere, Dio buono, è stato il 2 di gennaio del 54 che il 3 di gennaio la RAI ha aperto le trasmissioni, da quella volta è sempre in televisione, porca miseria, ma siamo fuori con la testa, che vada a lavorare, che non rompa i coglioni, quella chiacchierona, lei, Salvini, tutti. Cioè, tu dici, i politici fuori da Vicenza, vadano via dal benzina, non si possono vedere i politici lì. Ma non si può vedere il politico che prende, attacca il cappello sulle disgrazie, su quella di Stacchio, sul discorso degli immigrati, Salvini che dice a quell'altro. Vabbè, la politica però è anche interessarsi della cosa pubblica, di quello che succede nel mondo, di come frenare l'immigrazione, altrimenti se non lo fanno i politici, chi lo deve fare? ma c'è una maniera per fare le cose, bisogna proporre, bisogna lavorare in Parlamento, non bisogna andare in televisione, perché in televisione le leggi, puttana Eva, non si fanno. Va bene, ciao Emanuele, carico, è carichissimo. Caro Parenzo, ti ho invitato uno dei protagonisti di questa vicenda incredibile di Lotito, Molto bene. Anzi, il protagonista, diciamo la verità, il direttore generale dell'Ischia Calcio, Pino Iodice. Buonasera. Caro Iodice, allora... No, aspetta, io non vorrei che venisse registrata la conversazione nostra. No, questa registrazione, questa conversazione è registrata... Tranquillo, Iodice. Tranquilli, non ho il registratore. Non ha Iodice, se dovessi mai chiamarla, Dio non voglia... Cazzo, io non registro, No, però scusa, probabilmente Iodice non è... stai registrando, Cruciani. Ma siamo in diretta! La telefonata di Iodice, vergogna. Prima, mentre l'abbiamo invitata. Iodice, scusi, non è che ha registrato la telefonata quando l'abbiamo invitata, no? No, assolutamente, c'ho il registratore con le pile scariche, quindi state sereni. Scusa, diamoci del tuo, Pino. State sereni, amico mio, francamente. Ecco, state sereni, un'espressione... un'espressione funesta. Devo dire che anche noi, Parenzo, ne abbiamo combinate di cotte di crude con le telefonate. Ma noi che c'entra? Un'altra cosa, però noi anche abbiamo fatto scherzi telefonici, cioè abbiamo il salvaconduto papale, dici tu. Salvaconduto della signora, dell'avvocato Malavenna. Sì, quello sì, è vero. Salvaconduto del direttore. Diciamo che i giudici ci hanno dato ragione. Salvaconduto delle procure. Delle procure, è vero. Volevo capire da Pino Iodice, innanzitutto, se anche da ragazzi. Io questa parte di trasmissione, adesso sto zitto due minuti perché ho paura, qualunque cosa dica, ho paura che poi è intercettata, è registrata. Ma siamo in diretta, David, siamo in diretta. Voglio fare presente. Siamo in diretta, non è registrata. Possiamo parlare tranquillamente. Allora, Pino Iodice è un dirigente di calcio che ha registrato. È un dirigente, il direttore generale dell'Ischia. Ha registrato quella telefonata con Lotito. Sì. Volevo capire da Pino Iodice, al di là di tutte le cose che ha detto in questi giorni, se lui. Quante altre registrazioni ha nel campo? Beh, questo l'ha già detto in realtà. Ha anche altre registrazioni, vero? Sì. Quante? Come sì? Ma un'altra. Un'altra? Una sola? Di quanti minuti? Ma di chi? Un quarto di 10 minuti. Di Lotito, ma che l'ha già data. No, non l'ho data a nessuno. Non l'ha data a nessuno. Se ne dia un pezzo almeno. Vabbè, aspetta, poi la trattativa la facciamo. Voglio capire da Pino Iodice, dice cose ancora più gravi, Lotito? No, nella telefonata dice che se siamo orientati a programmi diversi da quello che lui ha fatto veicolare a tutte le società. Se non supportiamo il presidente Macalli, le solite storie che in questi giorni ci sono ripetute, lui avrebbe fatto di tutto per evitare di farci avere i contributi federali. Cioè, lei considera queste cose delle minacce ed è per questo che ha registrato, è vero? Cioè, prima sicuramente sì, e come ho detto anche in tante altre occasioni, queste minacce ricevute Lotito non le ha fatte solo a me, ma a tanti altri presidenti, e si è confermato anche ieri nell'assemblea della Lega Pro che si è celebrata a Firenze, dagli interventi di taluni presidenti, i quali hanno chiaramente ed inequivocabilmente affermato che Lotito ha fatto pressioni su tutti. Però le pressioni, scusi, Iodice, le pressioni possono anche essere, come dire, di natura, ognuno fa i propri interessi, eccetera. Cioè, lei considera... ha parlato anche di minacce ieri in assemblea. Ma lei è stato minacciato? Si sente minacciato da Lotito? Ma io sono stato pressato e anche minacciato. Pressato e anche minacciato. Dunque, secondo lei registrare quella telefonata, quelle telefonate, è stato legittimo, assolutamente legittimo. Un atto di difesa, lei come lo definisce? C'è stata in questi giorni una retorica... No, ma lei come lo definisce? Poi torniamo dopo la pubblicità. Come lo definisce la registrazione delle telefonate? Una cosa legittima? Poi io ho detto già ieri in una trasmissione a Tikidaka che di questa vicenda qua mi interessa la sostanza e che sarà la magistratura a decidere se questa cosa qua è legittima o no. Ma lei come la definisce? Una forma di autodifesa? Come la definisce questa roba? Le dico una cosa. Si dice... guardi, rispetto a questa questione qui, io cosa la voglio definire? Dopo le tante pressioni che ho ricevuto, chiaramente insomma mi sono stancato e l'ho registrato. E dunque, che cos'è? Una forma di autodifesa? Ma sicuramente sì. Spettacolare. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. Siamo Siamo qui la Zanzara con uno dei protagonisti di questi giorni, l'uomo, caro Parenzo, che ha fatto quasi meglio della Zanzara, diciamo la verità. Noi siamo arrivati fino alla Presidenza della Repubblica, siamo arrivati nei nostri scherzi telefonici fino ai saggi, siamo arrivati fino ai ministri, abbiamo scombussolato governi, eccetera eccetera. Però il signor Iodice, con questa telefonata registrata, che è una cosa certamente diversa da uno scherzo telefonico, e sarà la magistratura a decidere se è legittimo o no registrare una telefonata e poi pubblicarla, renderla pubblica, per una vicenda come quella del potere nel calcio, definiamola così. Iodice, insomma, ha scombussolato i vertici del calcio italiano. Io voglio capire da Pino Iodice, che è il direttore generale dell'Ischia, come definisce Lotito. Lei ha detto che non gli stringerebbe la mano innanzitutto, è vero? Assolutamente no. Cioè, come lo considera? Ma guardi, un elemento pericoloso. Pericoloso, come ha detto, come attenzione che dicono che poi lei è etero diretto da Marotta, perché è la stessa parola. Assolutamente, io non sono diretto da nessuno, sono me stesso, punto e basta. Cioè, Marotta non l'ha mai visto in vita sua? No, Marotta lo conosco, come no? Ma sicuramente non sono diretto da nessuno. Perché qualcuno ha parlato, come dico, di lotta di potere, dunque Iodice sarebbe una parte di questa lotta di potere. Io non ci credo, per quello che mi riguarda. Assolutamente no, assolutamente. Cioè, non è che gliel'ha detto qualcuno dalla Juventus di fare questo, di combinare questa roba. No, assolutamente no. Ma ha paura del fatto che Lotito dice che con i soldi che farà dalla causa ci vorrà una carriola per portarli? Ah, questi sono fatti suoi. Non so da dove si prenderà tutti questi soldi. No, dice da lei. Sicuramente, ma non ho tutti questi soldi per darli allo Tito. Cioè, anche se quanti soldi ha nel suo conto in banca? Io dice, no, fammi i fatti suoi. Sono un poveraccio, che soldi in banca? Non ho nemmeno il conto in banca. Manco, come manco il conto in banca? Non ho il conto in banca. Cioè, no, lei non ha un conto in banca? No, vivo di contanti. No, ma dai, Iodice, non è possibile, è il medioevo questa roba. È possibilissimo. Cioè, lei non usa, ma non è manco legale, credo. Perché non è legale? Ma non si può non avere il conto in banca, Iodice. Io non ce l'ho. Lei non ha conto in banca? Assolutamente no. E vive di... quanti contanti c'ha, per esempio, a casa? Dove... 100 euro, 200 euro, 300 euro. Ma dove li tiene gli altri soldi? C'è lo stipendio? Ma chi... non li ho da dargli allo Tito. No, d'accordo, ma lei dice di non avere un conto in banca, ma qualche soldo da parte ce l'avrà. Ma assolutamente no, vivo alla giornata. Vive alla giornata. E diciamo che ha dei soldi, ogni tanto lo piglia lo stipendio da qualcuno. L'Ischia gli dà qualche denaro. Ho dato lo Tito a darmelo, volendomi assumere alla Lazio. Però scusi un attimo, Iodice, però però lei non ha soldi, ma che ne so, li tiene sotto il materasso, 2.000, 3.000, 4.000, nemmeno quello. Ma niente. Cioè, prende lo stipendio dall'Ischia e lo in contanti. Glielo danno in contanti lo stipendio? No, adesso non scherziamo. Ho un conto corrente, l'Ischia chiaramente mi deve bonificare perché le regole sono chiare attraverso il bonifico bancario. Vabbè, ma in banca quanto c'ha? 2.000, 3.000, quanto ha? Sì, 2-3 mila euro per vivere la giornata. Ma secondo me manco c'è, adesso lei si è reso conto di aver detto una cosa, adesso sta tornando indietro dicendo che c'è un conto in banca. Non ha conto in banca. Forse in quanto tesserato, perché altrimenti non sarebbe possibile essere un tesserato. Vabbè, comunque c'ha 2-3 mila euro i soldi. Le pezze al culo, dai. C'ha le pezze al culo, vabbè, d'accordo, le pezze al culo, non esageriamo. I soldi per come ti piacerebbe. Io dico, come funziona questa cosa della registrazione? Cioè, lei tecnicamente come ha fatto? Me lo spiega? Tecnicamente ho fatto la telefonata e ho preso un registratore e ho registrato, punto. Cioè, dall'esterno ha messo viva voce e poi ha registrato. Certo, ho messo viva voce e ho registrato. Impara Parenzo. No, ma non impara. Mi sembra però una cosa, come dire, così carina, Zamparini ha detto che è una cosa da infami registrare ieri qui alla Zanzara. È una cosa da infami, l'Unione Sovietica, eccetera eccetera. Poi ha parlato anche male di Lotito, però ha detto ieri che è una cosa da infami. Come risponde a Zampa? È da infami anche cacciare gli allenatori. Addirittura. Certo, vabbè, quella è una cosa tecnica, Iodice. A me piace, però sto Iodice risponde, Cioè, lui che è un mangia allenatore, insomma, non credo che sia proprio una persona che è equilibrata, insomma, voglio dire. È da infami. Da infami mi sembra che abbia usato un termine un po' pesante, insomma. Zamparini. Beh, quello sicuro. Infatti, Zamparini io non ho il piacere di conoscerlo, però uno che si esprime in questa maniera nemmeno mi interessa conoscerlo, onestamente. Tra l'altro, insomma, non credo che sia andato giù leggero, insomma, definendomi un infame, voglio dire, insomma, io credo che per talune logiche vanno usati certi mezzi, perché se Lotito non fosse stato prepotente, se Lotito non avesse fatto le pressioni, se Lotito non avesse minacciato, se Lotito fosse stato una persona corretta e leale e democratica, sicuramente tutto questo non sarebbe accaduto. Sì. Allora sta dicendo che registrare era una specie di ultima ratio, diciamo, no? Cioè... sicuramente, anche perché voglio dire, non è stata una sola telefonata con l'intento di registrarlo, sono state fatte ripetute telefonate durante diverse giornate. Lui. Certo. Ma lì lei quando parlava sembrava quasi essere d'accordo con lui, era per spingerlo a dire le cose, cioè era un trucco. Sì, è certo. L'intento mio era quello. Ma Parenzo, tu dovresti imparare, perché se tu sentissi questa telefonata qui, cioè impareresti tante cose, perché io dice a un certo punto spingerò Tito a dire alcune cose e sembra quasi essere d'accordo, cioè o è un meraviglioso attore e adesso ci sta pigliando per il culo tutti, oppure effettivamente l'ha incastrato. La cosa fondamentale è questa: lo Tito nella telefonata parla della famosa storia del Carpi, eccetera, non delle cose che le interessano di più, che riguarda la Lega Pro, sono quelle che secondo lei si dovrebbe dimettere domani mattina, lo Tito? Ma avrebbe già dovuto farlo, le sue esternazioni sono state gravi, tra l'altro insomma ha additato Beretta, ha additato Modi, Agnelli, Nicchi, ne ha avute per tutti, ma lui la cosa grave, gravissima, è che tutto quello che ha detto nella telefonata lo ha anche confermato. I giorni dopo, l'ha detto. Nei giorni successivi. Sì, i giorni successivi. Questo è delirante, questo è un soggetto delirante che ancora... è lì e che imperversa. Ieri era alla Lega Pro, era in Lega Pro. Beh, quello sì, è proprietario di una squadra. Quindi voglio dire, insomma, qualcuno dovrà pure intervenire. Ma c'è una mafia intorno allo Tito? Ma io questo non lo voglio credere, però nel momento in cui questo signore non viene redarguito, cioè non viene richiamato e non si adotta nessun provvedimento, a questo punto devo dire che lo Tito sta bene a tutti e allora mi convinco che le dinamiche sono un po' diverse, probabilmente c'è una regia, c'è una cupola, c'è qualche una cosa cupola addirittura, una cupola. Sicuramente sì, e voglio dire... Cioè come ai tempi di Moggi? Sicuramente... Cioè il nuovo Moggi, dice lei? Nuovo Moggi... Lei è abbastanza legato a Moggi o no? No, assolutamente, è stato scritto anche questo. Io non sono non ho mai lavorato con Luciano Moggi, assolutamente. Sono arrivato al Napoli. Cioè, non è un uomo di fiducia di Moggi, uno che conosco. Assolutamente no. Luciano lo conosco, ma non sono mai stato a lavorare con lui, nemmeno sono mai stato un uomo di fiducia di Luciano Moggi. Però qualche marachella l'ha commessa pure lei. Io la appoggio sulla questione della telefonata, perché decideranno i magistrati. E per me è stato bravo a far venire alla luce alcune cose, alcune verità nel calcio italiano. Questo devo dargli in atto. Parenzo è un po' meno d'accordo su questo, sbaglio, vero David? Certo. Perché? Bravo. In che senso? Scusa, spiegami. No, non sono d'accordo per niente. Non sei d'accordo sul fatto che uno registri le telefonate? Sveglia, su, dimmi. Ma te l'ho detto già in apertura, lo dicevo scherzando, ma mi pare una follia assoluta che uno che fa una conversazione che crede privata con un amico, peraltro, con uno che sicuramente no, che assolutamente lo Tito non è un mio amico, non è un amico. Ma sarebbe come se io ad esempio registrassi le telefonate con la redazione della Zero con ma che Cucciani. C'entra mica lavoriamo mica Iodice lavora con, no, scusami, con a me non è mai capitato che un collega mi registrasse scusami tra le tante fregnacce che si dicono off the records, come si dice, o tra le tante conversazioni private che possiamo fare anch'io e te prima di preparare la trasmissione. Cioè, ho capito, ma noi non siamo un importante dirigente del. Ma non c'è dubbio, a maggior è diversa ragione. La cosa, no? Ma a maggior ragione ti dico che fastidio darebbe a me se qualche. Ma quello non c'è dubbio che il fatto che sia una cosa al limite. Infatti, no. C'è un'indagine della magistratura che deciderà se registrare quelle telefonate è legittimo o no. Scusami, ma tu come ti sentiresti se fossi al bar con una persona che credi amica, magari un giornalista, e stai facendo delle confessioni, magari delle tue cose? Risponda a questo, Iodice, risponda a Parenzo su questo. Dopo questo ti dice, guarda che ho registrato tutto. Iodice, risponda a questo. Guardi, io credo che bisogna smetterla di fare retorica. Bisogna finirla. Retorica un cavolo. Bisogna finirla, la dovete smettere. Voi dovete adesso vi attaccate alla forma, ma non affrontate l'importante problema della sostanza. Basta con la forma, perché è vero, avrò anche sbagliato, non è una maniera ortodossa sicuramente per quella che quello che è stato il mio comportamento, però basta, cioè mi sembra che effettivamente si voglia disconoscere il problema, non si voglia andare a fondo, non si vogliono affrontare le cose e si parla. Cioè che il problema che è quello di uno che ha troppi poteri, di quello uno che vuole spadroneggiare. Sì, questo è un consigliere federale, è un Zamparini lo ha paragonato a Mussolini per la volontà. Mussolini, queste sono affermazioni che ha fatto Zamparini. Il discorso, insomma, che dico io, lui è un consigliere federale, dovrebbe dare l'esempio, lui ha barattato, e questo che dico, lo dicono ha tutti. Barattato, dimmi. Ha barattato promesse, ha detto che ai presidenti della Lega Pro avrebbe fatto togliere punti di penalizzazione, avrebbe fatto affluire contributi, avrebbe fatto ripescare. Cioè, si comporta come chi? Come lo possiamo paragonare? Si comporta come un mascalzone, secondo lei, lo Tito? Sicuramente sì. È un mascalzone. Sicuramente sì, uno che fa promesse da consigliere federale perché si veste del potere e sì. promette alle società vantaggi pur di accaparrarsi voti e consensi. Sì. Cioè dice io ho registrato in nome della giustizia, questo è il punto. Sicuramente sì, sicuramente sì. Però, scusi, però io dice anche lei ha commesso qualche marachella, per esempio mi risulta che ha pagato una volta in nero un allenatore ed è stato anche inibito per un po' di tempo, sbaglio? Ma guardi, allora all'epoca ero nel Taranto. Direttore generale. E chi ha registrato lì nel Taranto? Come? No, non ha registrato nessuno. Non ha registrato nessuno. No, all'epoca no. Non avevo ancora l'abitudine di registrare. La moglie la registra ogni tanto quando parla, dice guarda, devi comprare il latte. La no, mia moglie lì. Ma facesse quello che vuole, non mi interessa. E il giorno dopo dice no, cazzo, vi detto il latte, non la siete piccottata, rientra tutto quello. Io guarda un terrore che dà la cena con gli odici, cazzo. Mi dà il tuo numero, Parenzo. Ma che... col cavolo, vado a cena con gli odici. Guarda che c'è gente, Parenzo, che è abituata veramente a registrare tutto. Una volta a me mi hanno pure registrato senza che lo sapessi. No, ma anche a te. C'è gente malata. C'è gente malata. Capito, ma tu a te piace un mondo così? Ma no, ma ho capito, ma se uno vuole registrare, io non ho niente da nascondere. Ma lo stesso, a voi piace un mondo così? Allora, c'è il proprietario di una grande squadra americana, Parenzo, che è quella dei Clippers, una società di basket, che cui hanno registrato una telefonata ed è stato costretto, non è che si è discusso lì, telefonata giusta, ed è stato costretto a lasciarla questa squadra, è stato costretto a dimettersi dalla proprietà. Andiamo alla sostanza, ha ragione io dice su questo, anche se qualche volta, una volta credo che abbia pagato in nero un allenatore. Allora, mi fai fare chiarezza su questo aspetto? Dimmi, quello risulta però. Sicuramente sì, ma forse insomma è stato anche scritto con molta approssimazione. Io all'epoca ero il direttore generale del Taranto, abbiamo assunto un allenatore e la proprietà ha inteso stabilire un compenso extra per questo soggetto. Vabbè, sei stato inibito per quanto tempo su questa roba qua? Mi hanno dato 6 mesi, poi ridotti a 3 in appello perché ho fatto ricorso e mi hanno ridotto. Vabbè, anche tu ti sei reso, come dire, protagonista di una vicenda poco chiara nel mondo del calcio. Perché ne ero a conoscenza, sono stato condannato solo perché era a conoscenza, avrei dovuto denunciare la cosa alla procura. E poi col cazzo che il presidente non mi cacciava. Comunque, la questione dei punti di penalizzazione, però, mi sembra una cosa grave quella che hai detto. Cioè, Lotito avrebbe promesso di togliere punti di penalizzazione a qualche squadra? Guardi, alla fine insomma succede che c'è qualche società che ieri, termine ultimo per pagare gli stipendi del bimestre di novembre e dicembre, e guarda caso prima insomma aveva dato adesione al fronte dei dissidenti e ieri invece si è schierato con insomma tu mi stai dicendo una cosa pazzesca, cioè che Lotito per avere delle persone dalla sua parte passa sopra anche delle regole. Lo scopro io? No, e che ne so, questa è un'accusa che fa lei. Vabbè, io dice grazie, a presto, arrivederci. A voi, grazie, arrivederci, buon lavoro, a presto. Saluti. Questa trasmissione è assolutamente geniale. Gheddafi era un grande figlio di puttana, però era il nostro figlio di puttana. Allora, Don Severino da Potenza. Don Severino, vai. Buonasera. Buonasera, dimmi. Senta, signor Cruciani, potrebbe ripetere, se vuole, quello che lei ha affermato per quanto riguarda la vignetta su Maometto? Sì. Me la potrebbe ripetere? Quello che ho detto prima? Quello che ho detto prima? Esatto. È molto chiaro. Sì, esatto. C'è tutto il diritto in Occidente di ritrarre, per scopi ovviamente satirici, un Maometto come un cane, che è la cosa che ha fatto, non me lo sto inventando io, è la vignetta sotto accusa di questo vignettista danese che vive protetto perché i terroristi lo vogliono ammazzare. Certo. Chiaro? E quindi lei condivide questo? Assolutamente sì, cioè, nella maniera più assoluta. Ma cosa significa la satira? Sai che cosa significa la satira? Ma può essere, guardi, la satira, no, mi spieghi, certo, no, che mi cosa spieghi, vuol dire? No, Etimologicamente ci sono tanti tipi di satira, no, caro. No, quella dal greco e dal latino. Sì, ma amico mio, le domande a parte che le faccio io, non le fa lei. Le domande questa trasmissione. Ragione, okay. Benissimo. Okay. Lei vuole sapere il significato letterale di satira. Lei ha affermato questo. Benissimo. Allora, siccome le trasmissioni vengono registrate sia la Vengono registrate, sono in diretta, allora, se, cioè amico esatto, mio, sì. E poi c'è la registrazione. Sì, certo, non allora, c'è guardi, dubbio. Allora guardi, che se eventualmente ci sarà qualche attentato o qualcosa a causa di questo, sì, a causa, adesso no, per no, carità. Ma non è che io la rendo così importante, perché sa, ognuno si esprime per quello che conosce, per quello che sa. E comunque, anche se poi tra qualche giorno presente, riveleremo qualche cosa che magari le farà cambiare idea, comunque. No, ma io sai, sono molto informato, anche se posso No, chi ha detto niente? Comunque, Don Saverì, che vuole? Mi dica. No, io non voglio nulla, voglio semplicemente dirle, appunto, che lei si auguri, bene, che non succeda nulla. Perché altrimenti? Perché altrimenti lei è un corresponsabile, perché lei è veramente una persona, no, di questo. Ma di lei è un prete, è un religioso di potenza, Don Saverino. Io sono un prete. Io ho un grandissimo rispetto per lei e per tutto quello che rappresenta. Benissimo, allora io però ho un grandissimo rispetto di chi piglia per il culo Allah, Maometto, Dio, la Madonna, non è una bestemmia, eccetera, eccetera. Questa è la sua cultura. E non mi interessa, la blasfemia è una cosa che non esiste, la blasfemia. Per fortuna non esiste più un reato del genere nel codice penale. Non esiste, per fortuna, non esiste. Ma lo sa qual è il suo problema, caro Crusani? Qual è? Che molti l'ascoltano, no? E fa successo. Mi permetta, a lei non interessa di nulla, non gliene frega di nulla. Ma che vuol dire non mi interessa di nulla? Non è vero, non è vero, non è vero. Ma scusi, Don Saverino, non ho capito. Allora, se dovesse succedere un incidente, un attacco, eccetera, per quello che ho detto su Maometto, che si può tranquillamente ritrarre come un cane, ovviamente non insultando dicendo Maometto è un coglione, ma poi anche in quel caso, scusi, gli insulti vengono sanzionati dal giudice, ma non dalle lame, non dalle bombe. Ma lei lo sa benissimo, questa è tutta perché se lei, secondo lei è legittimo intervenire con le armi contro io non cado nel suo tranello. No, risponda, risponda. No, io gli dico semplicemente questo. Cioè, giusto la fine che hanno fatto quelli di Charlie Hebdo è giusta secondo lei? Quando ci sono magari lo pensa, non risponde. Quando ci sono personaggi come lei che fa queste affermazioni, allora si deve prendere la responsabilità che ci possono essere che fanno quelle azioni. Ha capito qual è il problema? Ma lei è completamente fuori di testa. Cioè lei sta dicendo, siccome è legittimo secondo me ritrarre Maometto come un cane, allora è legittimo che qualcuno bombardi Radio 24. Se ne prenda le conseguenze. Ma lei è completamente fuori di testa, lei è un donna. No, ma con me il furbo non lo fa. Ma no, il furbo, che furbo? Io sto dicendo, sto ascoltando le sue parole, con ho detto me il furbo. Lei sta dicendo una cosa gravissima, una cosa gravissima. No. La cosa gravissima la sta dicendo lei, Don Severino. Ma quale? Le parole gravi le dice lei, che è un religioso, allora, un prete. Se succede qualcosa, va bene in questo che succede? Senso, no, se succede qualcosa, ci rivedremo. Ma rivedremo dove? Dove ci rivedremo? Dove? In tribunale? Dove? In tribunale? Dove? Non si preoccupi, lei non si preoccupi. No. Pensi a tornare a casa calmo e tranquillo, perché tanto a lei non ne frega di niente e di nessuno. No, scusi, Don Saverino, abbia pazienza, amico mio. Il punto è un altro. Il punto è molto semplice. Lei ha detto che se uno scrive, disegna Maometto come un cane, poi è giusto che si prenda le bombe. No, non è detto come questo, no? Caro. Come no, amico no, mio? Sì, sì, bombe. Poi si deve aspettare, caro. Si deve aspettare una reazione, le si deve aspettare. Beh, le conseguenze quali sarebbero? Male, e dunque le conseguenze del suo male. E le conseguenze quali sarebbero? In un momento politico, strategico, di terrorismo come questo, va bene, le persone non devono fare questo. E ma non devono fare questo cosa? Ma l'ha quest'altro, ma c'è anche quest'altro che le dà ragione, è impazzito, c'è pure quest'altro che ti dà ragione. Quest'altro non è impazzito per niente. Quest'altro, ma voi siete ritiene, completamente fuori di testa. Quest'altro, a differenza tua, e ha ragione il signore che ha chiamato, ritiene che non è insensibile il fatto che se io rappresento la Madonna in un certo modo e non dico come perché io non voglio bestemmiare, o rappresento Dio in un certo modo. Questo è diventato Teo Con, peggio degli io altri. Io non bestemmio! Il califfo lo può insultare, ma che Maometto, c'entra? Ma la bestemmia, Madonna, non c'entra nulla. No, ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Ma non è vero, la satira. Come al solito. Ma hai ragione. Infatti, la satira non ha confini, non rompere i coglioni, ma non Fabio da Siena. La satira. Don Severino, vada a ripassare non un po' di testi, va. Vada a ripassare un po' di testi sacri. Vada non a ripassare un c'entra la vada, satira. Vada a ripassare un po' di Bibbie, un po' di Bibbia. No, vado a ripassare la lingua italiana e la greca. Vai a ripassare la lingua italiana, la greca, le Bibbie, le Bibbie. Lei non sa niente. Ma io non so niente. Se io non so niente, lei siamo all'ABC. Ma lei l'ascolta, l'ascolta il Papa o non l'ascolta? Il Papa, ha detto le mie stesse cose. Il Papa, amico mio, il Papa. Io sento, io ascolto Valentina Nappi, no il Papa, Valentina Nappi. Lei conosce la signora Nappi? L'ascolta la signora Nappi? L'ascolta la signora Nappi? L'ascolta la signora Nappi? Sa chi è la signora Nappi? Tu solamente, è l'unica cosa che puoi fare, ascoltarla e basta. Ah, perché lei conosce la signorina Nappi, però. Bravo. La conosci la signorina Nappi? Meglio di te, meglio di te. Ah, oh, Don Severino, Don Severino. Ah, signorina Nappi, ti sei visto pure qualche film porno con la signorina Nappi? Ah, un prete che si vede film porno, vergogna, vergogna, vergogna. Ma stai zitto, ma stai zitto. Sempre se sei un prete. Sempre se sei un prete. Sempre se sei un prete, ovviamente. Allora, informa, no, informa di lui. Anni, sono stato un anno a parlare per un minuto in un'altra trasmissione. Dove? Mi conosco a Radio 24. Dove sei stato? Non ho capito, per un anno a pagare un... Un minuto avevo alla fine di una trasmissione. Che cavolo fa? Che abbiamo, ora, che abbiamo fatto di male? Che abbiamo fatto di male? Non hai fatto niente di male. No, abbiamo, io sono per dover subire tutto questo che abbiamo fatto di male. Io sono affezionatissimo a Radio 24. Poi i miei colleghi sacerdoti sono Don Paolo Farinella e altri, siamo amicissimi. Ma guarda che Farinella la pensa come me su questo. Sì, ne sono convinto. No, ma io non ho capito, Don Severino, abbia pazienza. Adesso, il punto fondamentale è questo. Cioè che tu stai dicendo una cosa clamorosa, che uno si deve aspettare le reazioni quando raffigura Maometto come un cane. Ascolta. Ma questa è follia, è follia, follia pura. Ma cosa ha detto? Ma il Papa, infatti ha sbagliato, il Papa ha sbagliato. Allora, d'accordo, allora io la penso come il Papa, ti ho detto le stessissime cose. E vabbè, ma non è che pensi come il Papa e significa che per forza c'hai ragione. Non è che hai ragione per forza se la pensi come il Papa. Può sbagliare anche il Papa, non c'è più l'infallibilità papale. Naturalmente. Don Severino. Caro mio. No, ma quale infallibilità? Per te sarà infallibile, per te e per Parenzo sarà infallibile. Ma vedi che non capisco. No, ma non è io. Per te sarà infallibile, per me non è infallibile. Io non credo. La dottrina è la morale, ma la morale è la tua. La tua morale, la tua morale. Ammetti preservativi, introduci preservativi, fai una campagna sui preservativi a Potenza, Don Severino, fai una campagna sui preservativi a Potenza, fai una campagna. Tu non hai bisogno. Ma io non ho bisogno perché li uso. Ah sì? Sì, li uso. Tu li usi pure? Li usi anche tu? Che strano, no, non li uso, caro. Non li usi, caro? No, perché ho fatto un'altra scelta io. Hai fatto un'altra scelta. Mo adesso le donne, non ti piacciono. Le donne non ti piacciono. Ma che significa questo? Ti piacciono le donne o no? Ma io esattamente. Ci le guardi? Altro. Le guardi? Certo che le guardo. E ti arrabbi anche un po'? Assolutamente no. Non ti arrabbi? Ho fatto un'altra scelta. Non ti fanno né caldo né freddo le donne? No. Ora, caldo e freddo no. Questo non c'entra nulla. C'è cioè, una piccola tremorella. Cioè. Ascolta, quando uno ha fatto una scelta, se è fedele a questa scelta, non ha bisogno di queste cazzate, capito? Vabbè, un po' di cazzate. Il sesso mica sono cazzate, dai, su. No, comunque io rispetto. Se hai fatto una scelta. Per carità di Dio, assolutamente. Rispettando le persone che ti sono accanto. Assolutamente. Non le puoi prendere in giro, insomma. Assolutamente. E allora perché siete così contrari al matrimonio gay, per esempio? Io no, io non sono contrario. Tu non sei contrario. Sei come Farinella, allora? Sei come Don Farinella? Ci conosciamo, ci frequentiamo con Don Ciotti, ho fatto lotte per anni su temi vari e ho pagato. Ma io non capisco perché consideri offesa una vignetta contro Maometto. Non riesco a capirlo. Non riesco a capirlo, sul serio, non lo capisco. Non capisce, c'è poco da fare. Solo voi capite. Non capisci un cazzo su questa cosa, solo voi capite. E non so se lo fai solo per fare polemico perché ma ci credi. Ma smettila, Don Severino, arrivederci, grazie. Dai, ciao. Beh, amici miei, siamo al flop. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Beer, more, occasion, but this man's life goes on, he gets squeezed. caro Parenzo, taxi rivolta contro Uber. Taxi rivolta contro Uber in tutte le città italiane, cari tassisti. Nonostante quello che dice Parenzo, noi alla fine siamo con voi. No, no, senza atti di violenza, senza atti di violenza. Io li sostengo. Ma se la politica, se la politica vuole cambiare le cose, faccia una legge in modo da garantire a Uber di essere presente sul mercato. Altrimenti, se fanno come i taxi, se si comportano come i taxi, se danno lo stesso servizio dei taxi, e mi dispiace per gli amici liberali, eccetera, eccetera, se danno lo stesso servizio, allora devono esserci le stesse regole che valgono per i taxi. Non c'è niente da fare, ragazzi, non si scappa, non è che uno può essere più favorito e altri meno favoriti. Se danno lo stesso servizio, e danno lo stesso servizio in alcuni casi, non si scappa lì, non si scappa. I tassisti attaccano Uber perché sostengono che quel famoso cartello contro l'amministratore delegato di Uber Italia, cartello vergognoso ovviamente, se lo siano fatto da solo quelli di Uber per poi fomentare la polemica contro i tassisti. Cartelli che si attaccano da soli. Ci si è fatti da sola, secondo certo. Me. Uber Pop non paga tasse. In tutta Europa Uber è stato messo fuori legge, qui continua a lavorare indisturbato. Non è proprio così in tutta Europa, comunque. L'inglese lo parla? No, no, per carità di Dio. Perché no? Perché quando arrivano qua devono parlare italiano loro. Io se vado in Germania, almeno la base la devo sapere. L'inglese. Mi arrangio, do you speak English? Yes, a little bit. E poi mi fanno vedere, hotel, vattela a pe, cioè non c'è bisogno che mi dice se parlo l'inglese. Ragazzi, questa storia pure è ridicola, eh. Per quale motivo al mondo i tassisti italiani devono sapere l'inglese? Cioè, ma perché devono sapere l'inglese? È meglio che lo sappiano, ovviamente. È meglio che lo sappiano. Ognuno farà come gli pare, o no? Cioè, non è che c'è un obbligo di conoscere le lingue. Ma siamo impazziti o stiamo dicendo sul serio? Ma adesso tutti scandalizzati perché i tassisti italiani parlano, a parte che bisogna vedere. Ieri, per esempio, ci ha chiamato uno. Ma a New York, nessun siccome i tassisti sono... Vabbè, tutti a New York che c'entra? Perché l'inglese è la lingua madre, non è che sono tenuti. Ma ti sto dicendo un'altra cosa. A New York il primo lavoro che gli immigrati, i migranti fanno, sì, sì, è proprio il tassista. E nessuno spesso conosce l'inglese perché certo, sono appena arrivati. Certo, assolutamente. Certo, lì dici cazzo, le strade facili, prima, seconda, beh, terza, oddio, quarta, non è così quinta. Semplice. No, no, no. Però ragazzi, siccome è un lavoro di immigrati, certo, in America. Certo, spesso non sanno nemmeno la lingua del posto, cioè l'inglese. Spesso non sanno neanche la lingua del posto, certo. Oh, l'amministratore delegato di Uber, Arese Lucini. Vado un attimo a far pipì, ti lascio 30 secondi. No, fermo che c'è un ospite pazzesco. No, ma che lasci? Vado un minuto a far pipì. Oddio, fare la pipì, questo deve fare la pipì. Una cosa pazzesca, dai. Sostiene che i cittadini vogliono Uber. Bah. Viene usato questo tipo di violenza per cercare di fermare un processo che comunque nasce anche dai cittadini, perché sono i primi che lo vogliono utilizzare. Beh, alcuni cittadini certamente sì, non è che però tutti i cittadini chiedono Uber. Vabbè, abbiamo già un ospite, aspettiamo che torni Parenzo dal bagno, va. Speriamo che la piscia duri poco. Se n'è andato, vedi un po', controlla un po', se n'è andato? Se n'è andato a pisciare o no? Davide, sei andato a pisciare? È andato a pisciare, non mi risponde. Francesco da Roma, vai Francesco, vai. No, io volevo... Ma perché a me non mi viene mai da pisciare in due ore e mezza, quello sì? Cioè, ve lo domandate voi questa cosa? Ma non lo capisco io sta cosa qua. Comunque, vabbè, vai. Dimmi Francesco, vai. No, è che volevo dirti che sono d'accordo con quel padre di prima sul fattore della satira, sì, a tutti i costi. Sì. Non sono d'accordo con te, stavolta hai toppato, mi dispiace. Sì, ma... ho toppato, benissimo. Cioè, in tutta Europa, nella civilissima Danimarca, è consentito raffigurare Maometto come... Non è consentito. Ma non come un cane, nel senso... Come no, legge. È consentito, certo che è consentito, per fortuna è consentito. La legge è diversa, questa è una cosa spirituale. Cioè, tu ti immagini guarda, se un vignettista... Ascolta, dimmi. Se un vignettista ti facesse la Madonna una prostituta... Ma guarda che lo fanno, è pieno di vignette. Ma non lo fa nessuno. Ma chi non te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? È pieno... Dappertutto. Da dove? Pigliano per il culo e raffigurano la religione, i protagonisti della religione, ma la no, Madonna, ma no, Gesù. Ma no, dappertutto. Ma, preti, ma Papa, nessuno porta in tribunale nessuno. Terrena, ma la gente. E io ti parlo da cristiano, ti sto parlando da cristiano. È una questione di rispetto. rispetto alla spiritualità. Guardi, uno, lei ha un'idea del rispetto, benissimo. Dopodiché, una persona che fa satira, una persona che fa le vignette, non deve guardare in faccia nessuno, non deve avere rispetto per nessuno. Ma questa è un'altra cosa. Punto. In faccia nessuno, ecco, tu mi puoi prendere per può culo, anche bestemmiare da un certo punto di vista, tra virgolette, può anche bestemmiare. Ma qualsiasi altra cosa che giri intorno a me, ma non qualcosa che sta in alto. Una vabbè, fede. Ho capito. Ma dove sta scritto? Ma chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene che la fede è più importante di altre cose? Allora, ma perché sei così turzo? Ma che cazzo? È possibile che tu solo tu non lo vuoi capire? Ma che solo io? È pieno di gente. Per fortuna sono circondato da un sacco di gente che non lo capisce. Per fortuna non esiste più il reato di blasfemia o cose di questo tipo. Ma non è vero. Ma Davide è tornato. Hai pisciato? Sì, certo che sono tornato, ma mi sto godendo questo qui che ti sta mazzuolando per bene. Sta dicendo la stessa cosa che dici tu, per cui. No, ma non è questione di reato. Di va bene, però non possiamo stare tutta la sera su questa roba. Parlo di cattivo gusto. Sì, di vabbè, cattivo gusto non fa parte di questa discussione. Ma lo so, a te piace l'offesa. Ma che c'entra l'offesa? Il politicamente scorretto. Stai parlando che non di un'altra cosa. Scorretto. Se io mi mettessi adesso a bestemmiare quella. Attacca il califfo. Se io mi. L'ho già detto. L'ho già attaccato. Ma no, perché è più difficile. Attacca il califfo. Ma non dire stupidaggini, un sacco di gente attacca il cavolo di Califfo. Gli stessi che fanno le vignette contro Maometto le fanno anche contro il Califfo. Vabbè, la stessa cosa. Contro Maometto non chiaro? Hanno senso, secondo me. Secondo te non ha, per fortuna, secondo te non hanno senso. Secondo il 99% di quelli che fanno le vignette nel mondo hanno senso, chissà perché. Il 99%. Però, io sarò un politicamente e tu corretto. Sei dall'altra parte, sei diventato peggio del mullah. Sarò peggio del mullah, certo. Allora bestemmi anche la Madonna, su. Ma non c'entra niente. Rilassiamoci un attimo. È con noi, viene definito sempre come il rivale di Rocco Siffredi. Io penso che ne abbia pieni i coglioni, scusate questa espressione, ma di essere definito in questo modo. È uno dei pornoattori più famosi in Italia, e non solo in Italia. Si è messo pure a scrivere un thriller, caro Parenzo. Non è che tutti quanti i pornostar sono delle bestie, come pensi tu, Parenzo? No. Sì, tu pensi che siano delle bestie? No, non sì, penso. Sì, pensi che siano delle bestie. Pensi non che siano... penso che sia John Grishman o qualcun altro. Ma perché... Franco Trentalance, buonasera, ciao Franco. Ciao ragazzi, posso dare in apertura un consiglio altissimo a Parenzo? Dai un consiglio. Però prima una domanda, Parenzo, in quanto tempo hai fatto pipì più o meno? Dammi una tempistica. Guarda, avendo bevuto oggi soltanto 2 litri di acqua. Beh, soltanto, sì. Insomma, molto. No, perché non ho pranzato, perché io ho bevuto acqua. Mi sentivo come in quel film di cui non ricordo il titolo, dove a un certo punto lui non si ferma più e chiama aiuto. Cioè, ero no, lì a fare perché pipì. Te lo dico perché? Fare la minzione trattenendo e rilasciando l'urina sì, un esercizio importantissimo per l'erezione e per prolungare la durata della performance. Ah, no, attenzione, fermi qui. Questa è fondamentale. Il professor Trentalance, che come sappiamo, non solo adesso ha scritto un libro che sarà per edizioni ultra nelle librerie, nella libreria da domani, che si chiama 3 giorni di buio. Sì, ci arriviamo perché è una cosa abbastanza seria, ti dirò. Beh, sì, certo, non è che puoi definire quello che fai una buffonata. Allora, il Trentalance fa anche delle lezioni, non so dove, delle lezioni di sesso in qualche televisione. E questa cosa qui, come è ovvio per un pornotore, ovviamente. Se fossi in America ti darebbero la conduzione di una radio di sesso in digitale, caro Franco. Purtroppo in Italia è un paese un po' arretrato da questo punto di vista. Beh, ci arriveremo, dai, prima o poi. Allora, com'è questa storia qui della pipì e della durata e della prestazione? In realtà non l'ho scoperto io, proprio. Beh, certo. Un nome. In realtà si potrebbe fare come esercizio, così come si va in palestra, di stimolare i muscoli pelvici perché li rinforzi e in questo modo stimoli l'erezione e aumenti anche la durata. Siccome farlo così, diciamo a secco, non è facile, certo. Mentre fai pipì hai proprio il getto che si ferma, lo fai ripartire, è abbastanza... E come fai? Che esercizio devi fare sul membro? Provalo, se tu fai la pipì e la trattieni, poi la rilasci e poi la ritrattieni, capisci il movimento da fare. Ah, è questa la cosa, cioè devi trattenere e rilasciare, esatto, rilasciare. È una bella scocciatura, però funziona, insomma, funziona. È come andare in palestra per il basso ventre. I grandi consigli di Franco Trentalance, ma è una cosa seria o si parla di sesso del suo libro, Franco? Allora, il libro in realtà no, è serio, tra l'altro è scritto a 4 mani con Gianluca Versace, che voi dovreste conoscere, un giornalista politico, bravo. No, è serio, come è serio. No, un po' di Canale Italia, certo. Esatto, un po' di sesso ce l'ho messo dentro perché se Carlo Cracco scrivesse un romanzo tutti si aspettano che un po' di cucina... Cioè il protagonista è un porno attore di questo thriller, diciamo, no? È uno dei protagonisti. È uno dei protagonisti. Diverse storie che si intrecciano e allora si io devo tra di andare loro. Tutti a comprare un libro di Trenta Lance. Allora, la questione è molto semplice. Io sono sicuro che Trenta Lance ha qualche parentela con due persone, almeno con una di queste due, caro Parenzo. Sì. Allora, prendi la foto di Augusto Minzolini. Prendi la foto di Augusto Minzolini, senatore di Forza Italia, mettila accanto a quella di Franco Trentalance e vedrai molte somiglianze. No, molte no, non la vedi? Beh, è uguale. Ma io non so che faccia abbia Trentalance. Ma come non sai che faccia abbia Trentalance? Pelato, film. È un viso molto particolare. Non ho mai visto sui cioè, non è un porno, cioè non è un attore porno di qualsiasi. Ecco, magari ho visto altre parti. Non hai mai visto un film quella. Di Trentalance? No, ma anche no, ma sei veramente indietro nel... Ma anche qualora lo avessi visto, magari mi sarei concentrato su altre, non sulla faccia forse, no? Parenzo. Dai, su. No, ma non lo so, stiamo parlando di un film porno, non ma ho di capito, Canurto. Però comunque vabbè, prima cosa. Scusami, non stiamo parlando del film, però mi fai perché mi devi fare incazzare? Mi sarà un film straordinario e va benissimo. Dopodiché Fellini è un'altra cosa. Ma però, che c'entra Fellini adesso? Mica si sta paragonando a Fellini, stavamo dicendo un'altra cosa. Minzolini, vabbè. Conosci Minzolini, Franco? Sì, come no, come beh, no. Ti sembra qualche rassomiglianza? C'è qualche rassomiglianza? Sì, occhio azzurro, rasato, diciamo rasato. Rasato, ma anche in faccia qualche somiglianza. Credo sia anche performante, così, a naso, orizzontalmente dicono, performante. Dicono che sia uno, da questo punto di vista, molto attivo, ecco, no? Performante non lo so, ma attivo sì. Hai avuto notizie anche te di questo? Sì, saputo. Ma invece volevo dire una cosa, perché Parenzo mi dileggia a volte, ma dai. Mi dileggia con affetto, credo, no? In realtà, sì, allora, i miei vecchi amici mi dicono, Franco, è tutta la vita che usi la parte bassa del tuo corpo, era ora che utilizzassi anche quella superiore, ok? Anche se non è del tutto vero, perché voi da navigati seduttori sapete bene che anche Parenzo, a letto, insomma. Anche per trombare ci vuole... La testa, concentrazione, determinazione. E anche le mani o le dita, come sai esatto. Bene, no? Per cui non è che utilizzi solamente la parte. Nella tua vita hai utilizzato tutto per il sesso, ti diciamo. Ho utilizzato tutto. Non tutto, c'è però... una cosa che non hai utilizzato. Oppure c'è una cosa che ancora vorresti fare nel sesso che non hai fatto? Una cosa Beh, che. Una fantasia che ho da sempre è di fare sesso con due gemelle. Due gemelle, ma sì. Non per propositi incestuosi o simili, ma per avere di una cosa che mi piace il doppio, la radice quadrata di una cosa che mi piace, come un bis di minestra, insomma. Beh, amico mio, devo dire che non ci avevo pensato a questa cosa con due gemelle, eh. Sì, sì, è per avere il doppio di ciò che ti piace. E c'ero andato vicino perché c'erano due sorelle gemelle che facevano porno in Ungheria. Sì. Beh, ho però... provato l'incrocio e una delle due non si è fidanzata una settimana prima, puttana miseria. Ma però scusa Franco, questa cosa però è un po' incestuosa, perché qui le gemelle poi che tra di loro non è che possono... No, ma loro non avrebbero interagito tra di loro. Beh, è difficile però non interagire in quel caso, eh. Comunque vabbè, andiamo oltre. L'altra somiglianza di Franco Trentalance, raccontatore di Spy Stories, è quella con il ministro greco delle finanze. Parenzo, in questo caso il web si è scatenato su questo. Ecco, adesso vedo le due foto, perché... No, quelle di Minzolini hanno già messa quando l'abbiamo detto noi su No, su... ma anche su Twitter vedo che... No, ma questa storia del ministro greco delle finanze è clamorosa, cioè è proprio... Un secondo dopo... No, ma che Checco Zalone? Un secondo dopo che è stato nominato... Ma no, Checco Zalone no, non gli dire queste cose, che Franco, per carità, è un grandissimo... Ma guardalo, non Franco... No, ma è solo perché è pelato... Il ministro delle finanze, Varoufakis. È Franco Trentalance. Franco, tu come risolvi il debito greco? Come risolveresti la questione della Grecia? Facendo guerra alla Germania, che faresti? No, beh, insomma, la fonte di reddito primaria è sempre la patata, per cui, insomma, legalizzare, fare... Ecco, fare... anche in Grecia legalizzare la prostituzione... No, all'interno non scopro niente di nuovo, no? All'interno di strutture regolari che pagano le loro tasse e risollevano un po' il morale e il debito pubblico. Capito, allora, mi dicono che tu alla fine non sei amico di Rocco che sta all'isola, non sei molto amico, anzi, al contrario. Non siete mai diventati amici? Perché c'è stato qualche screzio, qualche cosa, è troppo presuntuoso? No, premessa, allora, non essere amici non vuol dire necessariamente essere nemici. In secondo luogo abbiamo fatto, cioè lui, non so, vive a Budapest da 20 anni. Però non c'è mai stato feeling, diciamo la verità, mai? Ma è un po' forse l'ho già detto, non lo so, un po' come Vasco e Ligabue, cioè ognuno fa il suo, ma però se ci vediamo ci salutiamo, chiacchieriamo. No, certo, ma sei invidioso del fatto che lui è diventato un mito italiano e tu un po' meno, diciamo, o no? No, non te ne frega niente, no, non te ne frega nulla. Frega niente, quanti, soldi hai quanti soldi hai fatto col porno in vita tua? Mito lo sono anch'io, poi il parametro è, no, certo, è senza essere immodesto. Quanti soldi hai fatto col porno in vita tua? Adesso ne fai un po' meno, ne fai ancora ma un po' meno. Quanti soldi hai fatto? Tanti per campare per tutta la vita? No, non tanti, perché il porno ha sempre lavorato sulla quantità, ma non solo gli attori, anche i registi, i produttori. Vi siete mai chiesti perché il porno produceva tantissimi film? Perché si guadagna poco e devi lavorare sulla quantità, no? Se io avessi guadagnato 100.000 euro a film, ne facevo 4 all'anno come Brad Pitt o Tom Cruise. Ma quanto hai guadagnato fino adesso? Un milione di euro hai guadagnato? No, scremo. No, ma volevo dire una cosa tornando al thriller, e poi dopo con voi sai che chiacchierò volentieri. Nel thriller abbiamo finito qua. Nel thriller c'è, allora, ho messo un po' di tutto, ma in senso buono, c'è uno dei pornodivi che si diventa poi un porno investigatore perché è costretto a indagare per salvare. Però scusa, che dobbiamo concludere un'altra cosa, tanto abbiamo detto che bisogna comprare il tuo libro, ma Valentina Nappi, secondo te è una vera star oppure è troppo pompata? Cioè scrive su Micromega, è citata sul web, è brava o un blef? No, come attrice sicuramente brava, come comunicatrice non ho avuto modo di appurare più di tanto per quanto l'abbia incontrata un paio di fiere, è sicuramente... Rocco vince l'isola o no? Come affetto del pubblico potrebbe essere, bisogna vedere se gli autori del programma. Ma è vero, ma anche tu sei sex addicted come lui? O un po' meno? Lui sì, dice... ma quando io feci la talpa, che era più figo come programma, diciamolo francamente, era più figo dell'isola. Sono stato 2 mesi in astinenza, ma era talmente la pressione psicologica e lo stress che non mi pesò per niente. Ma invece adesso secondo te è un bluff il fatto che lui dice che resterà in astinenza eccetera, non ce la farà? No, non è un bluff, allora, secondo me lì non ti viene voglia di farlo perché è una situazione veramente pesante sia fisicamente che psicologicamente. Poi ovviamente ci avrà un po' giocato perché per me fa più bella figura se non fa nulla, insomma, tanto ma quello sicuro, se anche non trombo 2 mesi mica muore. No, oh, nessuno muore. Beh, insomma. Ciao Franco, a presto. Ciao a tutti. Ciao. A domani, ragazzi, 18:30, ciao. Io vi saluto, vi mando a fare in culo e finisce la storia. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Questo non credo. Radio 24. La passione si sente. Centrosoftware.com, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. Vi ha presentato La Zanzara.